ma guarda, io non voglio esprimere giudizio sulla partita di ieri o su Gioco Mario Balotelli e altri 10. A me quello che mi dà profondamente fastidio, anche ve lo esprimo, è questi alti bassi della nazione, della stampa professionale, sportiva e non sportiva nei confronti di Mario. Non c'è mai un equilibrio nei giudizi, no? Un giorno è così, un altro giorno è così. Quindi io ho sempre detto e continuo a dire: meno si parla di Mario, meglio è, perché se ne parla già troppo e se ne parla anche in modo inutile. Tutto fa notizie con lui, e quindi che lui è forte, io non ho mai nessun dubbio, e io so che è un giocatore straordinario e che può arrivare a certi livelli, cioè può arrivare a essere il più forte giocatore del mondo. Per me questo non è una sorpresa. Guardi. Quello che sempre mi sorprende è questi, diciamo, questi sbalzi di umore, di Sì. giudizio nei suoi confronti. Vedo che il giornalismo va molto verso cose non sportive ultimamente, no? Nei confronti non solo suo, ma anche di altri grandi campioni, come sta la moglie, come non sta la moglie, come sono i bambini, dove per scuola vanno. È un giornalismo sportivo che a me dà molto fastidio. Senta, io penso che in questo momento Balotelli avrebbe bisogno di giocare con continuità. Sono d'accordo. È ovviamente una sfida che abbiamo noi, le persone che gli stanno vicine, e lui stesso, con Manchester City. Non è facile. Non è facile perché ovviamente lui è un grandissimo giocatore, ci sono altri nel Manchester City, lui si deve scavare il suo spazio. Facile non sarà, però è una sfida che dobbiamo vincere, lo vinceremo perché lui ha le qualità di farlo e dimostra sempre, e almeno in nazionale ha sempre dimostrato, che quando gli viene caricata la responsabilità di tirare fuori, diciamo, un gruppo, non ci è sempre riuscito. Deve Quindi spiegarlo lei però questo. l'amministratore delegato del City, eh? Ma guarda, l'amministratore delegato del City a me mi ha chiamato, ha chiesto scusa per queste frasi che poi in Inghilterra sono state male interpretate, perché gli inglesi sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Io ho detto che ci sono certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi a me non mi preoccupo di queste cose perché so quante volte sono stato usato delle frasi per Mario Balotelli, al contrario, quindi non mi arrabbia, non è un problema. Anche a Mario non gli ha dato fastidio questo, può dare fastidio a chiunque non capisce certi equilibri.